Matteo Salvini ha deciso di farsi processare per la vicenda di nave Gregoretti e così sarà se poi il Senato darà il via libera il 17 di febbraio. Lo sguardo è sull'Emilia-Romagna, quello che conta è il voto di domenica dal quale potrebbero dipendere le sorti del governo e la scelta di Salvini è un pezzo della strategia di avvicinamento al voto, così come lo era la richiesta di rinvio voluta da PD e 5 Stelle. Il mondo guarda intanto con un filo di preoccupazione al virus scoperto in Cina, che ha fatto 4 vittime, si è appreso che passa da uomo a uomo, ma gli scienziati sono molto cauti sui rischi effettivi. La buona notizia è che, memore della vicenda della SARS, la Cina sta fornendo informazioni costanti. Di cosa si discute? Dell'assoluzione del vigile di Sanremo che timbrò il cartellino in mutande. Di Sanremo inteso come festival, dove la rinuncia di Monica Bellucci apre un nuovo caso, che poi è sempre lo stesso, quello del sessismo di Amadeus e delle donne sul palco. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E non possiamo iniziare senza di voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Il 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fatemi sentire la vostra voce. Per quanto assonnata possa essere, magari non lo è per niente. Ci trovate su Facebook in diretta video, come sempre, su Instagram, su Twitter, insomma ci siamo, E poi scrivete 24mattino@radio24.it. E già si fa sentire Luca da Sesto San Giovanni che ci chiede: il 17 febbraio ci sarà ancora, politicamente parlando, il Senato? Beh, dipende da come vanno le elezioni in Emilia-Romagna. La giornata è certamente caratterizzata dalla vicenda di nave Gregoretti e non c'è nulla da fare. Per chi non ricordasse la vicenda, siamo nel luglio scorso, nel luglio del 2019, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, allora era tale, e blocca per 5 giorni questa nave, che è una nave militare, al largo delle coste siciliane, con a bordo oltre 100 migranti. L'accusa è di sequestro di persona, un caso non diverso da quello di nave 18, che avvenne esattamente un anno prima ed era sempre una nave militare, sempre con più di 100 migranti a bordo, sempre rimasta ferma in attesa di uno sbarco. In cosa sono diversi i casi? Beh, non in moltissimi elementi, se non fosse per il fatto che in mezzo c'è stato il decreto sicurezza bis, e quindi diversi poteri allo stesso ministro dell'Interno, e in mezzo c'è anche, insomma, una crisi di governo che si avvicinava e una decisione che i 5 Stelle dicono non è stata condivisa con l'esecutivo. Quindi questa è la sostanza della cosa. E il primo chiamato in causa ovviamente è stato il presidente del Consiglio Conte, perché Salvini dice in realtà anche questa decisione, la decisione su Gregoretti, è stata condivisa con l'esecutivo. Sentiamo Conte. Il ministro aveva fatto appena approvare un decreto sicurezza bis che era entrato in vigore, che rinforzava le sue competenze, ha rivendicato anche pubblicamente una sua competenza specifica per quanto riguarda la decisione del se e quando far sbarcare le persone a bordo, i migranti a bordo della nave Gregoretti. Per quanto riguarda invece il mio ruolo, ovviamente quando si tratta di rispondere non della decisione specifica ma dell'indirizzo politico generale, io ci sono. E questo vale anche per quanto riguarda la circostanza specifica, il mio coinvolgimento con riguardo alla redistribuzione dei migranti in Europa. Sono stato sollecitato a farlo, è stato sollecitato a farlo il mio staff diplomatico, come in altri casi. Salvini, sentiamolo, va. Non mollare, ma sei matta, mi devono arrestare per farmi... Vabbè che non manca molto, però... Ma non mollo neanche da dentro, scriverò le mie prigioni come Silvio Pellico, faccio un nuovo format televisivo. il format televisivo Le mie prigioni. Vedrete che qualcuno prende l'idea, eh? Caro Michele Brambilla, bentornato, buongiorno, direttore responsabile, ciao, direttore responsabile del Quotidiano Nazionale, del Resto del Carlino. Allora Michele, qua insomma si sono sommati una serie di elementi che hanno a che fare tutti con la campagna elettorale in Emilia-Romagna, mi pare, no? Sia la decisione di Salvini di dire ai leghisti in giunta di votare a favore del processo, sia il tentativo di 5 Stelle e PD di ritardare il più possibile per non far presentare Salvini al voto come una vittima, no? Sì, tutto è un po' strumentale, la scelta di Salvini di passare per vittima in questa campagna elettorale, ma va anche detto che lui aveva fatto anche a meno di questa accusa di sequestro di persona che gli è stata mossa tempo prima per un atto fatto come ministro, e quindi direi che l'uso politico della giustizia è stato fatto in più tappe. Questo è un po' tutto grottesco, devo dire, perché insomma bisognerebbe pensare adesso a chi deve governare l'Emilia Romagna e anche alle ricadute che questo voto avrà sulla politica nazionale. Infilare dentro questa vicenda è un po' depistante. Mi pare che però oggi insomma Zingaretti che parla di uso politico della giustizia sia un po' bizzarro, perché allora potrebbe dire la stessa cosa a Salvini, che l'averlo inquisito per sequestro di persona sia stata la prima tappa di questo uso politico della giustizia. Insomma, sono cose che ci sentiamo dire da molti e molti anni in Italia, no? Come le inchieste della magistratura vengono poi utilizzate ai fini elettorali. Insomma, forse gli italiani sono anche un po' stufi. Sì, può essere, può essere. C'era un bel pezzo, avevo visto proprio nelle ore scorse, no? di Flavia Perina sull'inchiesta, fatemi citare anche un giornale online, sul tema di come la cronaca, esattamente la cronaca, e in questo caso anche la giustizia, no? Sia entrata prepotentemente. Il caso che citava era il caso di Bibbiano, che è un po' esemplare per certi versi, visto che si vota in Emilia Romagna, e Bibbiano in queste ore sta tornando ad essere un caso per la piazza, no? Che si divide tra le sardine e Salvini e le sardine che andranno là e faranno un flash mob oppure no, non si è capito bene, però insomma questi sono tutti temi che entrano in campagna elettorale e difficilmente ci entra, e lo dico da, lo chiedo, no? Lo dico una persona che dirige poi il quotidiano più importante dell'area dell'Emilia Romagna, è difficile poi che si entri sui temi veri, sui temi tosti, quelli delle imprese, del lavoro, no? della tassazione, di quello che fare per far sviluppare quell'area ulteriormente e via dicendo. Beh, non è vero che non si entra, poi magari la ricaduta mediatica è minore, però ieri per esempio la CNA degli artigiani qui a Bologna, all'Arena del Sole, c'è stato un confronto fra tutti e sei, perché una era indisposta, candidati a presidenti della regione, moderato da me, e si è parlato proprio di questo, di tasse, di burocrazia, delle difficoltà delle piccole imprese. C'erano ovviamente Bonaccini, Borgonzoni e tutti gli altri, c'era un teatro, l'Arena del Sole strapieno, e si è parlato di quello. Oggi nella sede del Resto del Carlino ci sarà il confronto, primo faccia a faccia Bonaccini e Borgonzoni, 10 domande ciascuno, 2 minuti di tempo ciascuno per rispondere, più 1 minuto di appello finale, e i temi che abbiamo messo in scaletta sono il lavoro, la sanità, le infrastrutture, le tasse, la burocrazia, semplificazione. Non c'è una sola domanda su Bibbiano, tantomeno sulla Grigoretti. Insomma, si cerca di parlare anche di contenuti. Di sostanza, sì. Diciamo la verità, sì. Siamo anche un po' noi giornalisti che a volte sì. Andiamo a beccare un caso di cronaca. Tocca dirlo. È vero, un po' la drammatizzazione sia su Gregoretti che su Bibbiano l'ha fatta oggettivamente anche la politica, e questo lo dobbiamo dire. No? Poi noi... Di Maio disse che si mangiavano i bambini, usavano i bambini li stordivano con l'elettroshock e poi li vendevano. Sì. Ricordiamo perfettamente, con un certo fastidio, per così dire, quella fase, per come è stata gestita dal punto di vista politico. In diretta sul vostro sito, quindi, questo confronto oggi, sì, Michele, sì, alle 3 del pomeriggio, lo dico anche per la diretta Facebook. Lo dico anche per gli ascoltatori. Tra l'altro, ospiteremo nei prossimi giorni, lo dico a 24 mattino, nello spazio con Maria Latella, tra le 8 e 20 e le 9. Ospiteremo il candidato del Movimento 5 Stelle, poi della Lega e del PD. E poi parleremo anche con i candidati calabresi, perché non scordatevelo, si vota anche in Calabria. Certo, un voto meno strategico dal punto di vista nazionale, meno importante dal punto di vista nazionale, e però si vota anche su quello. A proposito di questioni importanti, questioni importanti sono quella libica, all'indomani del vertice di Berlino. C'è un tema che resta un po', no, sotto traccia, ma nemmeno troppo, perché i pozzi continuano a rimanere bloccati, i pozzi di petrolio da parte di Haftar. Il presidente del Consiglio Conte dice: sembriamo secondari, l'Italia sembra secondaria, perché l'accusa è un po' questa, perché cerchiamo una soluzione, per così dire, pacifica. È chiaro che quando c'è il triste rumore del conflitto armato, paesi come l'Italia, che hanno fatto una scelta ben chiara di indirizzare a soluzione politica la stabilizzazione della Libia, lavorare con le armi della diplomazia, della politica, sembrano emarginati, sembrano passare in secondo piano. Non è così. Noi non abbiamo mandato armi, non abbiamo mandato uomini, non occupiamo il terreno, ma ricordatevi che stiamo investendo tutto il nostro capitale politico per indirizzare, ripeto, questo conflitto verso una soluzione pacifica che possa stabilizzare definitivamente il paese, nell'interesse a mantenere la Libia unita e sovrana. Argomento ovviamente collegato a quello dell'immigrazione, se volete, anche alla vicenda di nave Gregoretti. Oh, intanto diteci la vostra, se secondo voi per quel caso Salvini va processato oppure no, oppure era un ministro che stava esercitando legittimamente la sua azione di ministro dell'interno. 349-238-6666, anche via WhatsApp. Oh, fammi cambiare un attimo argomento, Michele, ti faccio sentire un audio del sindaco di Milano, che sta continuando a far discutere, perché prima la proposta di vietare il fumo alle fermate di autobus e tram, e ora anche San Siro e il fumo all'aperto in genere. Sentiamo. Ma insomma, il concetto è sempre, però quando parli di spazi aperti, se mi fumi di fianco, lasciami dire, mi dà fastidio, ho la libertà di spostarmi. Se sono in fila, se sono la fermata, se sono allo stadio, non ho la libertà di spostarmi. Quindi da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo, come minimo, dà fastidio, probabilmente fa anche male, e non hanno possibilità di evitarlo. Oh, mega dibattitone su questa storia, Michele? Yeah. Allora, da una parte mi sembra un po' eccessivo vietare il fumo all'aperto, dall'altra è vero che se c'è uno di fianco e la sigaretta ti dà fastidio, dovrebbe essere innanzitutto un fatto di educazione, uno se la dovrebbe accendere. È difficile normare questo per legge, però oggettivamente la legge che ha vietato il fumo in tanti locali, eccetera, ha funzionato, perché io ho una certa età, mi ricordo i cinema pieni di fumo, questa nube nella sala, mi ricordo la redazione del Corriere della Sera in Cronaca di Milano, dove ho cominciato a lavorare, era uno stanzone con 36 giornalisti, e c'era la nebbia per le sigarette, era anche bello, sembrava di essere un freeburger in un film, ma con la sigaretta sempre in bocca. Però la legge poi ha funzionato, perché non si fuma più. Questo, insomma, qualche cosa è servito. Effettivamente dire che allo stadio uno se fuma di fianco ti dà fastidio, io mi sento di dare ragione al sindaco, anche se c'è sempre il tema della libertà, insomma, sono discorsi che abbiamo fatto tante volte, si è molto si è fatto giustamente un martellamento sui danni della sigaretta, magari lo si è fatto meno su altre cose, però vabbè, ci sta. Dice, tutto sommato ci sta, insomma, mi sembra di dire, non è una decisione pazzesca, insomma. Va bene. Grazie a Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, per essere stato con noi e del Resto del Carlino. Sul sito del Resto del Carlino l'avete sentito, se siete in Emilia Romagna o se semplicemente siete interessati a questa competizione elettorale, alle 15 il confronto tra i due candidati. Il traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Mattino. Cavoli, sono anni che stiamo battagliando in tantissimi, con grande fatica in tutto il mondo, per riuscire a invertire una cultura profondamente sbagliata che riguarda proprio il mondo delle donne, no? Si sta combattendo sotto moltissimi punti di vista, l'emancipazione in primis. Michelle Hunziker su Instagram se la prende con Amadeus ancora per la storia di Sanremo dal quale da forfè. Monica Bellucci dice, porta tutta una serie di motivazioni, ma forse per quelle frasi dette da Amadeus in conferenza stampa, mille polemiche, addirittura preoccupazioni sulla pubblicità in queste ultime ore. Ma noi andiamo a Sanremo non per parlare del festival, ma della soluzione. Io devo essere molto sincero con voi e so che questa posizione potrà dar fastidio. Io, quando vidi le foto di quel vigile che timbrava in mutande, e quando vidi che ne fu diffuso il nome, fui molto perplesso, perché il punto è sempre quello: e se poi lo assolvono? Tu hai sputtanato una persona in tutto il paese e gli hai sostanzialmente devastato la vita facendone un simbolo di qualcosa che magari non è. E in effetti non lo era. È stato assolto il vigile di Sanremo che timbrava in mutande. Il che apre forse un po' di problemi in generale sul come funzionano le norme. Ne vogliamo parlare con una persona che se n'è occupata da ministro. Renato Brunetta, buongiorno, eccoci. Deputato, buongiorno, responsabile economico di Forza Italia. Eccoci qua, Brunetta. In 9 sono stati assolti, non solamente il giudice che... sì, ciao, il vigile che timbrava in mutande. In 9 sono stati assolti. Adesso il comune dovrà presumibilmente rifarsi carico di coloro che sono stati licenziati. Non c'è un problema, Brunetta, sotto questo aspetto, secondo lei? Cioè, i rischi non sono eccessivi, perché poi si va a processo e il processo può finire, per esempio, in questo modo. Allora, intanto, per completezza dell'informazione, 16 patteggiamenti, 16 rinvii a giudizio, uno prosciolto per non aver commesso il fatto, il vigile, e altri 9 prosciolti. Sì. Quindi questo è, come dire, la fase iniziale dell'iter di giustizia. E rammarico che tutto questo avvenga a 3 anni dai fatti, a 3 anni dalla gogna mediatica, e quindi, se vogliamo trovare un po' di responsabilità, cominciamo a distribuirle correttamente. Ha ragione lei, perché i giornali sono stati chiamati, i cronisti sono stati chiamati il giorno stesso degli arresti o del scoppio della vicenda, perché poi quando si viene colpiti per sempre e si rovina la vita. Da quello che leggo, il vigile era autorizzato a timbrare prima della destituzione da vigile. Se così era, ma perché non si è appurato immediatamente? Immediatamente, cioè prima di arrestarlo. Prima di arrestarlo. Immediatamente. Però aspettiamo ovviamente le motivazioni, rispettiamo il lavoro dei magistrati, sempre e comunque, però 3 anni per questa fase iniziale del procedimento mi sembrano troppi, quindi la lentezza della giustizia, forse a volte anche giustizia e spettacolo, non nel caso specifico, ma ci ricordiamo tutti le conferenze stampa con tanto di schemi, simboli, arresti, 100, 200, 300 arresti, e poi qualche mese, anno dopo si deve sapere che tutti sono stati prosciolti, sì, e la cosa non è andata avanti. Ecco, io mi auspicherei, mi augurerei, sogno un paese un po' più sobrio, un po' più controllato. Dice dal punto di vista della cronaca giudiziaria. Senta Brunetta, però sul fronte delle norme, visto che abbiamo pochi minuti. Ma le norme sono chiare. Qui si è di fronte ai cosiddetti furbetti del cartellino, e cioè a dei truffatori, quando ci sono naturalmente, quando questo viene appurato, e cioè da chi o non timbra, o si fa timbrare da altri, o commette degli illeciti per quanto riguarda la sua presenza sul posto di lavoro, oppure si assenta dal posto di lavoro dopo aver timbrato, le casistiche sono infinite. Sì. Tra questi, ricordo che tra questi di Sanremo ce n'è uno che, tra quelli che ha patteggiato, che è stato ripreso mentre era in canoa dopo aver timbrato. Allora, detto questo, io l'ho sempre detto, tutti questi comportamenti truffaldini, illeciti, illegittimi, dovrebbero essere risolti all'interno della pubblica amministrazione, vale a dire con controlli e sanzioni propri della pubblica amministrazione. Quindi i dirigenti si accorgono di questi comportamenti, i dirigenti provvedono secondo legge ai richiami e poi ai licenziamenti. Far intervenire la magistratura è come sparare con un cannone, come dire, in una partita di caccia. La partita di caccia ha le sue regole. Se tu non lavori, non lavori bene, o lavori e fai finta di lavorare e te ne vai in canoa, devi essere sanzionato e licenziato, ma non tanto attraverso l'arresto e poi un processo, ma dal tuo dirigente. Perché diciamocela tra di noi, in un comune importante come Sanremo, ma non enorme, quando si tratta di 30, 40, 50 persone che si comportano in questa maniera, lo sapevano tutti evidentemente di questi comportamenti, perché in una comunità di forse qualche centinaio di dipendenti, avere il 10, 15, 20% dei dipendenti che hanno comportamenti come dire, devianti, non poteva essere una cosa nascosta. E quindi lo sapevano tutti. E quindi il problema, l'ho sempre detto anche quando facevo il ministro, il pesce puzza dalla testa, vale a dire, dal mancato controllo dei dirigenti o dei dirigenti che non volevano vedere o che non volevano sentire. Quindi quello che dobbiamo fare per dare dei servizi alla gente, perché non è il terrorismo fine a se stesso, ma perché se quella gente non lavorava, andava in canoa, voleva dire che i servizi che si devono dare ai cittadini, allo sportello piuttosto che all'assistenza delle famiglie, agli asili nido, cioè tutti i servizi che svolge un comune, non venivano dati, perché c'era gente che non faceva il proprio dovere. Allora tutto questo dovrebbe essere controllato all'interno dalla gerarchia dirigenziale, all'esterno dalla popolazione, che deve dire no quando vede che non ci sono dei servizi, quando ci sono dei disservizi, quando lo sportello ha una coda troppo lunga, quando il verde non è verde, quando l'immondizia rimane sulle strade. La gente deve protestare, deve far sentire la propria voce rispetto alla qualità, alla quantità dei servizi, e la politica deve ascoltare la gente e intervenire, dare mandato alla dirigenza interna di fare il proprio dovere. Di intervenire, la magistratura mi scusi, la mezza apertura è l'ultima. In 10 secondi. L'ultima istanza. Sì. Non può essere la prima. Quando proprio sei in emergenza, sei alla fine, a quel punto eventualmente può intervenire la magistratura. La ringrazio, grazie Renato Brunetta e ci scusi per il poco tempo a disposizione, ma insomma questi spazi sono così. Deputato responsabile economico di Forza Italia, ex ministro della pubblica amministrazione. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.